100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. Cosa c'è dietro l'ennesimo botta e risposta tra la Commissione europea e il Presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi in tema di tasse? Potremmo dire con una facile battuta: molto rumore per nulla. In realtà la Commissione europea ieri è tornata, come aveva già fatto un mese fa, a ricordare che l'Italia, come molti altri Stati membri, ha un peso fiscale relativamente alto sul lavoro e invece relativamente basso sulle tasse sulla casa. Nello specifico poi Bruxelles ha aggiunto che l'Italia, come altri paesi europei, ha tasse relativamente alte sulla compravendita di case, mentre le tasse annuali sulla proprietà non sono particolarmente alte. Il suggerimento di Bruxelles alla fine è di aumentare le tasse sulla casa, ridurre quelle sul lavoro e quelle sulla compravendita. Nulla di nuovo, non solo lo disse già un mese fa, ma è da 10 anni che Bruxelles insiste con alcuni paesi, tra cui l'Italia, affinché la tassazione venga spostata dal lavoro o da chi dà lavoro, IRPEF e IRAP, alla rendita, quindi IMU e TASI. Lo fece anche durante le manovre del governo Berlusconi e il Presidente del Consiglio Renzi non deve prenderla, come invece ha fatto, come un attacco alla sua manovra finanziaria. Certo, si può comprendere che Renzi risponde in maniera piccata a Bruxelles anche a vantaggio del consenso interno del suo elettorato, ma non gli sfugge che questo non è un esame di Bruxelles né un obbligo, ci mancherebbe. Il vero esame Bruxelles lo darà fra 2 settimane, quando inizierà a vedere le coperture che il governo si attende per la legge finanziaria, a partire, in quel caso sì, proprio dall'eliminazione di IMU e TASI. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Sono almeno 5 anni che l'economia europea, e soprattutto quella italiana, inseguono la ripresa. Quella luce in fondo al tunnel che più volte è sembrata illuminare il percorso dell'economia mondiale, ma che si è poi rivelata puntualmente una fugace illusione. Inflazione, consumi, PIL, produzione, occupazione e commercio internazionale hanno dato segnali contrastanti, non solo sulla reale solidità della ripresa, dopo la più lunga recessione industriale e finanziaria dal dopoguerra, ma anche sull'efficacia delle misure di stimolo messe in atto dalle banche centrali di tutto il mondo. Basti pensare che dal 2000 ad oggi ben 600 tagli dei tassi di interesse successivi sono verificati tra l'Europa, l'Asia e gli Stati Uniti, un numero senza precedenti. Come senza precedenti, parliamo di oltre 10.000 miliardi di dollari o di euro, sono stati dati alle banche per stimolare i mercati e rilanciare i prestiti. Negli ultimi tempi, fortunatamente, qualcosa però ha cominciato a muoversi e la scomparsa delle parole rigore e austerità dalle dichiarazioni dei politici è un buon segnale. Sarà anche per questo che l'ultimo dato sulla fiducia dei consumatori e delle imprese negli Stati dell'Unione Europea è evidenziato a settembre un forte balzo superiore alle attese, un fenomeno sorprendente se si pensa che settembre è stato il mese della crisi cinese, della caduta delle borse e la crisi dei profughi del Mediterraneo. Ancora più interessante è il fatto che sia stata proprio l'Italia a dominare e a trainare la ripresa delle aspettative, cioè proprio il paese che ha sofferto di più i morsi della crisi e che ancora fatica ad agganciare la ripresa dagli altri. Malgrado tutto, insomma, un vento nuovo sta cominciando a soffiare, quantomeno sulle aspettative, e la grande responsabilità dei politici in questo momento è quello di non tradire queste aspettative con politiche industriali e soprattutto con manovre fiscali che ridiano ossigeno alle imprese e fiato alle famiglie. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.